piace la musica fino al mattino. Faccio casino lo stesso ma non bevo vino. Ridi cretino, la vita è corta per l'aperitivo. Innamorata di un altro cabron, questa è la storia di un amore. Non mi portare a Parigi o Hong Kong, tanto lo sai che poi faccio così. Faccio così. Cado, cado per la strada, parlo piano piano. Questa notte dormo sul divano, altro che pensare a te. Tanto qui resta la musica, resto scompare. Musica, resto scompare. Musica, resto scompare. Musica, resto scompare. E anche se non mi hai detto mai quanto sei bella, io non ho mai smesso di sorridere. E anche se non mi hai detto mai amore, aspetta tutto quello che resta quando penso a te. Guardare le luci dell'alba, girare nuda per casa e nessuno mi guarda. Quanto ti manca? Sì, mi hai chiamato col nome di un'altra. Innamorata di un altro cabron, e sta la storia di un amore. Ci stavo male per te, ora no. Tanto lo sai che io faccio così. Faccio così. Sola, sola, ti ho dato tutto e ancora, ancora resto qui, non dico una parola. Altro che pensare a te. Tanto qui resta la musica, resto scompare. Musica, resto scompare. Musica, resto scompare.